Adesso passerei la parola subito al relatore successivo, che forse alla fine abbiamo anche elementi comuni poi da prendere in considerazione nella discussione. Don Buzzetti, vero? È stato già presentato, vero, per il suo interesse per il mondo della traduzione italiana, no? Viene dall'Ateneo Salesiano di Roma, no? Che ci è vicino anche per altri suoi confratelli che ci assistono spiritualmente nello sforzo che il nostro istituto sta compiendo, e che quindi ci presenta la sua relazione sulla traduzione della Bibbia. Vero, che stiamo usando, e per una classificazione delle varie possibilità. Penso che alla fine parecchie cose si presenteranno anche alla interrogazione e alla discussione. A lei la parola, padre. Grazie. Alcuni anni fa, in un paese non europeo, un missionario stava facendo una liturgia, e c'era anche la lettura della Bibbia. Finita la liturgia, in sagrestia o in qualche luogo simile, si avvicina un anziano dell'etnia locale e dice: ma scusi, cos'è che ha letto lei? Ma ho letto la Bibbia. Dice: ma scusi, non è possibile, ho capito tutto. Il che fa, è proprio, ma è una testimonianza, non è una barzelletta, è proprio è successo qualche anno fa. Il che dice: ma è una buona traduzione quando si capisce o no? Ecco, questo è soltanto un esempio di come il problema sia aperto, appunto, nel senso che i giudizi sono diversi. Infatti, più volte in questi anni mi sono incontrato con queste posizioni più o meno irriducibilmente diverse, proprio perché partono o da presupposti o da attenzione diversa lasciata, per esempio, all'eredità che si ha dalla scuola. Senza fare della psicanalisi della traduzione, però è vero che moltissimi, se non tutti, si portano dietro il peso, qualche volta benedetto, qualche volta un po' meno benedetto, di certe distinzioni scolastiche. Io non so se ho avuto delle disavventure particolari, ma non mi sembrano molto particolari. A una certa età della mia giovinezza credevo che esistessero soltanto le traduzioni fedeli e quelle infedeli. Poi qualcuno mi ha detto anche che c'erano anche le traduzioni letterali e quelle libere. Una dichiarazione così di classi non molto chiara, devo dire la verità, sono riuscito a sopravvivere anche senza questa chiarezza, ma io ho capito in maniera più o meno pratico-diplomatica che le uniche traduzioni che andavano bene erano quelle che piacevano al professore o alla professoressa, poi per il resto basta, ecco. Così che sì, perché ho capito che sia di un tipo o di un altro, quelle che piacciono e sono accettate sono quelle che vanno bene, altrimenti no. Quando, uscito dall'ambito di questi giudizi, mi sono interessato di traduzioni, lo faccio da qualche lustro, ecco, ho visto che purtroppo uno dei punti deboli è proprio la mancanza di quella che potremmo chiamare sensibilità pluralistica, non nel senso della rendevolezza teorica, ma proprio di un serio atteggiamento. In tanti settori dell'esistenza abbiamo imparato a capire che essere o bianchi o neri o gialli o non vuol dire essere buoni o cattivi, mentre con le traduzioni vale un atteggiamento fondamentalmente razzista. Ciascuno sceglie la sua razza e dice: questa è la buona, e le altre sono tutte più o meno. Il che vale, ripeto, per tutti, non vale soltanto da una parte o dall'altra. ma credo che esista alle spalle non una teoria particolarmente nefanda, ma quell'influsso scolastico non molto critico che ha le sue giustificazioni anche pratiche. Devo dire la verità, non parlo di quello, che col tempo mi sono anche riconciliato un po' con le distinzioni scolastiche adolescenziali. Tuttavia, l'esperienza anche di insegnare un po' l'ambito delle traduzioni mi ha fatto vedere come è estremamente pratico, ma estremamente utile, illuminante, liberante, indicare il mondo del tradurre come un arco di possibilità e non come una lavagna con una riga in mezzo, con i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, ma un arco di possibilità che sono, senza esagerare l'irenismo, ma sono tutte eventualmente buone, possibili, anche quelle categorie del tipo fedeltà o infedeltà che sono state legate e sono legate molto alle traduzioni, ecco, si possono attribuire a diverse traduzioni. Non esiste la traduzione fedele, esistono diversi tipi di traduzione fedele. Ora, la presenza di un arco ho visto che è liberante da una parte e d'altra parte è promuovente, in quanto alimenta un atteggiamento e, se vogliamo, una spiritualità non soltanto della tolleranza, così, ma della comprensione di altri modelli. Addirittura quello di sì, è vero, forse la traduzione che io ho sotto gli occhi oppure la traduzione che io ho prodotto è buona, però forse anche un'altra diversa ha dei valori, cioè proprio in maniera analoga a quello che si fa e si dice per culture diverse, certo sono diverse, e si comprendono i valori. Ora, di fatto, io comunico qui quello che a livello, faccio un po' come anch'io, come i Targumim, passo un po' dall'orale allo scritto. A livello di tradizione orale, da tempo ho elaborato, non so se sotto un'ispirazione molto speciale, cioè non si può presentare un arco di possibilità, non si può, si potrebbe, ma di fatto se si presenta un arco di possibilità molto molto complesso è scoraggiante. Dice, beh, se allora esistono tante traduzioni, quante le persone o quanti momenti della vita, allora non ci si capisce. Da un punto di vista della comunicazione delle valutazioni, trovo, ma anche qui non ho nessuna pretesa di affermare in maniera drastica la cosa, trovo che la seguente classificazione, note per una classificazione, dove il note non è soltanto così una sfumatura di gentilezza, è davvero, è strutturale, sì, sono note. Se qualcuno per altri motivi pensa di modificare la classificazione, non troverà in me un grande oppositore. Io di fatto presento questo tipo di classificazione, una classificazione di questo arco grande. Io indico quattro, non punti, ma quattro aree, dove i punti sono tanti, eventualmente infiniti, ma quattro aree, e di ogni area presento un po' le caratteristiche, le difficoltà di produrre una traduzione di questo tipo in questa area, l'utilità. Lo accenno in maniera rapida qui per motivi anche pratici, ma esemplare, nel senso di vedere che cosa appunto dico e si dice, perché è vero che lo dico, ma appunto lo dicono ormai anche vari alunni in quest'area. Cioè, io ho identificato una prima area, insisto sul fatto che è un'area e non un punto, usando il modello geometrico, un'area che chiamo la traduzione letterale, parola per parola. Ora, la caratteristica, o meglio, le caratteristiche, alcune delle caratteristiche di questa area del tradurre, e quindi queste, plurale, traduzioni, perché non esiste, sono le seguenti. Una corrispondenza parola per parola che tende ad essere rigida. Tende. In qualche caso è molto, molto rigida, in qualche caso un po' meno, eccetera. In maniera sistematica, qui si tende a fare in modo che un certo termine, per esempio, un certo termine del testo originale è sempre tradotto con lo stesso termine nell'altra lingua. È una cosa molto diffusa ed è tipico di quest'area e di questo modello della traduzione. Altra caratteristica è la massima imitazione degli aspetti formali, sia quelli ampi. È poesia, si traduce in poesia, è prosa, si traduce in prosa. Altri meno macroscopici ma non irrilevanti, ritmi, abbiamo sentito parlare poco fa, metri, altri addirittura suoni, ecco. A vari livelli di caratteristiche formali c'è una imitazione, dico imitazione perché detto in termini un po' estremisti, sappiamo che la miglior traduzione letterale è una fotocopia, cioè non è più una traduzione portata al limite da questo punto di vista. In questo senso è meglio dire imitazione, perché se si dice calco non si traduce più. Un'altra caratteristica di quest'area è la riproduzione del tipo o genere di parole originarie. È molto frequente anche dire: ma come? Qui nel testo originale, o quello che si traduce, c'è un verbo e qui mi aspetto un verbo, c'è un aggettivo, mi aspetto un aggettivo, c'è una preposizione, mi aspetto. Quindi anche questo, il che appunto in altre aree non succede, ma qui è una caratteristica dell'area letterale. La conservazione massima del numero stesso delle parole. A volte la valutazione di una traduzione si fa in termini matematici. Quante parole, quante parole. Ora, una traduzione di tipo letterale tende, sottolineo il tende, perché dipendendo dalle strutture linguistiche non è possibile essere sempre perfettissimamente identici, però ha una coincidenza molto vicina anche dal punto di vista materiale. E, cosa molto discussa, ma, ripeto, per quest'area caratteristica, è la riproduzione letterale, parola per parola, anche del linguaggio figurato, anche delle espressioni idiomatiche, eccetera. E le metafore, quell'area che è il linguaggio figurato, qui non è trattato come linguaggio figurato, ma è trattato come parola per parola. Queste alcune delle maggiori caratteristiche. Le difficoltà, alcune delle difficoltà del produrre questo tipo di traduzione, è la lotta che esiste tra la tendenza a fare la fotocopia e la tendenza a tradurre. Perché il pericolo di un tipo di traduzione molto letterale è che non traduce. Mentre il pericolo di una traduzione che vuole essere letterale, ma insieme vuole anche essere uno strumento di comunicazione, è che si allontana dal modello letterale. Quindi c'è una certa tensione. Le lingue, lo sappiamo, sono diverse per struttura o lessicale, semantica, grammaticale, sintattica, cosicché dice, vabbè, non c'è nella mia lingua questa struttura e quindi come faccio a tradurre? Le traduzioni parola per parola esistono, ma qualche volta sono strane. Tanto strane che dice, ma questa non è la mia lingua. Ecco. Il massimo non è molto frequente nell'area italiana, perché non c'è, ma in altri ambiti esiste. Sono le traduzioni interlineari, sono le più accentuatamente letterali. Quelle proprio che una linea è ebraica o greca e l'altra linea è italiana. Allora lì si vede e allora si deve dire, si deve mettere l'articolo quando, anche davanti a Dio, oppure tante altre cose. E quindi qui c'è una difficoltà, perché appunto non sempre si riesce a essere fedeli al programma. Un'altra difficoltà legata a quella precedente è il fatto che una traduzione assolutamente letterale, proprio in teoria, o meglio, è impossibile, assolutamente letterale. In quanto dire io imito perfettamente la forma e siccome la traduzione è passare a altre forme, allora ecco lì c'è una specie di contraddizione. Di fatto la difficoltà è anche la capacità di comprendere quale livello di minimo compromesso si deve realizzare, perché la traduzione è, da questo punto di vista, anche se la parola in lingua italiana ha qualche connotazione negativa, ma è un compromesso tra un desiderio di imitazione formale e un desiderio di comunicazione, altrimenti, appunto, non si comunica. Comunque, è una difficoltà, qualcuno diceva che un traduttore è uno che soffre, si soffre su questo punto, per esempio, proprio perché si è tesi tra queste due esigenze. Nell'ambito della imitazione della forma, ricordo quella che più volte è ripresa, è un po' la storia di quel chimico che sulla scia degli antichi alchimisti voleva produrre in laboratorio l'oro. Un giorno produce un qualcosa che dice, sì, sembra proprio oro dal punto di vista del colore, ma non sembra molto oro dal punto di vista del peso o della malleabilità, eccetera. E allora una volta raggiunge un effetto, una volta un altro, e cambia, lavora nel suo laboratorio, finché un giorno, felice, dice, ho prodotto una cosa perfettamente uguale all'oro. E arriva un suo amico e gli dice, ma scusa, forse è l'oro. E allora lui non sa se ha prodotto qualcosa o di diverso dall'oro in maniera diversa o se ha prodotto l'oro. Ecco, ed è il dramma del tradurre, che se uno vuole assolutamente conservare tutto gli aspetti formali, fonetici, eccetera, rischia di tagliarsi le gambe o la testa, rischia di non tradurre. Ecco un punto di sofferenza, un punto di difficoltà. Mentre l'utilità di questo tipo di traduzione, quindi le caratteristiche, le difficoltà, l'utilità, bisogna, io qui faccio un po' da, non qui soltanto, in questo ambito, mi trovo spesso in mezzo a persone che rappresentano emotivamente tendenze diverse e dico, no, non devi dire che è l'unico, ma no, non devi dire che questo tipo di traduzione non serve a niente. Qualcuno molto preso da altri tipi di preoccupazioni dice, no, queste traduzioni non servono, sono, no. E elenco, per esempio, queste utilità. Questi tipi di traduzione, la traduzione di tipo letterale, aiuta a comprendere la forma originaria anche se io, per vari motivi, non sono in grado di accedere a questa forma. Mi aiuta a capire che è poesia, mi aiuta a capire un ritmo, mi aiuta a capire una lunghezza, mi aiuta a capire certe risorse utilizzate in questa lingua. Nel caso delle traduzioni della Bibbia, certo, se io leggo i figli della stanza nuziale, poi si tratta che non è che sono così i bambini di qualche reparto di ospedale, sì, oppure se leggo le porte della città, so che non sono soltanto degli stipiti di legno o cose del genere, se leggo, cioè ci sono tante espressioni che questi tipi di traduzione mi aiutano a comprendere in maniera indiretta. Certo, sarebbe meglio che, però molte persone per vari motivi non sono in grado di accedere all'originale, questo tipo di traduzione veicola, comunica come l'originale, il testo originale si è espresso, quali tipo di risorse linguistiche usa. Quindi è un vantaggio. Un secondo vantaggio molto pratico è la capacità di trovare termini o espressioni fisse. Con questo tipo di traduzioni basta conoscere una corrispondenza e dire, tutte le volte che incontro questa parola so che esiste nel testo originale questa parola, tutte le volte che incontro questa struttura so che esiste nel testo originale questa struttura. Da un punto di vista della ricerca, anche pratica, è molto utile, è una utilità innegabile. Si dice anche, il terzo esempio di utilità, si dice, ecco, questo tipo di traduzione arricchisce un'altra lingua. Obiettivamente si deve riconoscere che un uso prolungato di certe forme molto letterali, al limite quasi ricalcate delle imitazioni molto vicine al testo, un uso prolungato crea qualcosa di nuovo nella lingua nella quale si traduce. Probabilmente in questo caso chi soffrono non sono soltanto i traduttori, ma anche i recettori. Per i primi soffrono, ma i secondi o i terzi o i quarti godono, nel senso che dopo un po' l'uso prolungato crea, è vero, io cito così di fretta, ma è chiaro che esistono espressioni nella lingua italiana che sono il risultato di queste traduzioni. Certo che la buona novella è una maniera abbastanza letterale di tradurre un'espressione, però è diventata un'espressione entrata nell'italiano. Se io dico il sale della terra e la luce, certo, è molto letterale, però è diventato patrimonio della lingua italiana, almeno in certi ambiti. Pensiamo ai talenti, pensiamo ai farisei, con tutte le distorsioni, però è diventata una parola. Noi prendiamo un dizionario italiano, si trova anche farisei, certo, non è che danno l'indicazione subito, però è diventato un termine italiano, certo, magari preso soltanto per, o soprattutto per dire persona particolarmente poco sincera, cioè le distorsioni ci sono, però è un termine che è entrato. E prendiamo frasi, si parlava proprio nell'intervallo, gli uomini di buona volontà, anche lì c'è un po' di distorsione probabilmente, però è entrato. Che sia non di solo pane vive l'uomo, magari lo dice anche qualche datore di lavoro ai sindacalisti, ma usando delle frasi, cioè espressioni, parole, espressioni entrano anche, e sono soprattutto questi tipi di traduzioni che le fanno entrare. Non sappia la tua destra, non sappia la tua sinistra, quello che fa la tua destra, cioè, è preso da lì. E ultimo vantaggio che elenco, che mi deriva da un'esperienza specifica, questo tipo di traduzioni può essere preso come punto di partenza per altre traduzioni. Non è l'ideale. L'ideale è sempre partire dai testi originali. Però la storia del passato e la storia del presente ci insegna che in certe situazioni non è possibile. È un bel ideale tradurre dall'ebraico, ma se vogliono la Bibbia in un certo ambiente e nessuno sa l'ebraico, lì cosa si fa? Si ringrazia il Signore se esiste una traduzione molto letterale, la quale diventa la base per un'eventuale altra traduzione. Ecco. Questo per l'area A. Guardo l'orologio perché non voglio... sono quattro le aree. Per un'area B, l'area A letterale, l'area B letterario, traduzione di modello letterario. Sono un po' più veloci qui. Le caratteristiche sono la dignità letteraria, una certa sofisticazione letteraria, una certa abilità letteraria. Il testo tradotto possiede un tale grado di raffinatezza linguistica, letteraria, da poter figurare dignitosamente in un'antologia, per intenderci. Un'altra caratteristica, l'adozione di quelle risorse linguistiche che nel contesto culturale entro il quale si realizza la traduzione sono comunemente ritenute tipiche della letteratura di buona o di alta qualità. Abbiamo sentito accenni anche al problema del gusto, no? Certo, le traduzioni bibliche di natura letteraria sono quelle che dicono bello o non bello il testo originale, la mia traduzione deve essere bella. Ecco, ma vedremo, è una caratteristica, poi vediamo se appunto è anche un vantaggio. Terza caratteristica, non sempre, molto spesso le traduzioni di tipo letterario hanno molte note. Perché? Perché sono quelle che più esplicitamente sentono la distanza tra il testo originale e questa forma. E allora, e siccome sono dei prodotti letterari, quindi scritti, utilizzano anche quella risorsa che sono le note, per esempio. E le varie study Bibles che esistono in giro sono quelle che hanno tante note o tante introduzioni, cioè le Bibbie di studio sono queste. Nella storia ne sono esistiti modelli diversi e quindi non entro in questo. Difficoltà di produrre questo tipo di traduzioni. La prima grande difficoltà è quella di saper bene la lingua. Il che non è una cosa ovvia. Una traduzione di tipo letterario la sa fare chi possiede bene la lingua d'arrivo. Cosa che, per esempio, molti con atteggiamento di tipo missionario non sempre hanno fatto, perché sono quasi sempre degli stranieri pieni di fede, ma non pieni di gusto letterario, eventualmente. Una seconda difficoltà è quella di lasciarsi affascinare dalla sirena estetica. Io ricordo un professore che abbiamo avuto anche insieme con Don Zani all'Istituto Biblico, il quale a suo tempo, pensate che tempi, si esprimeva anche in latino e diceva di un certo libro della Bibbia, barbarissimus quidem, e poi andavamo a vedere nella traduzione, non appariva per niente barbarissimus. Cioè, è una difficoltà quella di, detto in altre parole, di essere troppo belli. È un pericolo della traduzione letteraria di essere eccessivamente bella, di far vincere alla Bibbia il premio Nobel della letteratura. Ecco, è un pericolo, tanto che si promuove a un livello di preoccupazione estetica quello che invece è appunto un prodotto più o meno barbarus, che però veicola qualcos'altro. E un altro pericolo, che è forse il più grosso, è quello dell'uniformità. In una traduzione di tipo letterario, una grande differenza tra Genesi e Apocalisse non c'è. Cioè, il linguaggio biblico dice, queste affermazioni un pochino, il linguaggio biblico passato attraverso il setaccio letterario. Ecco. E mentre chi legge la Bibbia nei testi originari vede non soltanto delle differenze macroscopiche passando anche solo dall'ebraico al greco e anche qualche pezzo di aramaico, il che sparisce in una traduzione, ma se ha una sensibilità nelle lingue citate capisce, sì, questo è un ebraico di un certo tipo, questo è un ebraico di un'altra epoca, come noi siamo in grado di capire se è un italiano del tempo di Dante e se è un italiano del tempo dei nostri giornali, ecco. Mentre le traduzioni letterarie tendono ad appiattire un po' tutto, ed è, questo è un pericolo. L'utilità di queste traduzioni? Beh, l'utilità prima è quella dell'evangelizzazione del mondo della letteratura. Obiettivamente, le traduzioni letterarie hanno il merito di aver presentato la Bibbia in ambienti dove senza questo tipo di mediazione forse non sarebbe entrata mai. Inoltre, molto legato a questo, il vantaggio di far stimare la Bibbia. Perché una Bibbia tradotta bene, che bello, e dire che bello, che bella la lingua, e dire che bello o che buono il contenuto è un passaggio abbastanza facile. Le traduzioni letterarie hanno molto spesso questo merito, di far stimare la Bibbia, e quindi hanno una loro legittimità da questo punto di vista. Una traduzione di tipo letterario aiuta l'apprendimento mnemonico. Da quello che è scritto sulle tombe a quello che scriviamo su qualche altro monumento, quasi sempre è soprattutto il tipo di traduzione letteraria quello che passa in una forma da memorizzare. Addirittura in epoche più o meno lontane da noi si possono imparare a memoria, ma si imparano a memoria non le traduzioni di tipo letterale, le traduzioni di tipo letterario. Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi. Altri ci sono, ma eventualmente non li discutiamo. Un'altra area, un altro modello, ma ripeto, soprattutto l'area, poi evidentemente anche un modello, è quello che io chiamo non più letterale, non più letterario, ma liturgico. Non accentuo eccessivamente la specificità liturgica perché non sono un competente, però dico quali sono le caratteristiche. Le caratteristiche, parlavamo prima appunto di Targumim, e quelli vengono da un ambiente almeno molto simile a quello che qui uso per brevità l'etichetta di liturgico, è una traduzione di facile lettura. Non sempre il lettore liturgico è un fine dicitore. Quindi, e lo sappiamo, io ho visto più volte, tutti noi abbiamo esperienza anche delle difficoltà di lettura. A Roma in due luoghi diversi, per cui senza connessione, ho trovato che la lettura era tale per cui lo scriba Esdra diventava lo scriba Esedra. Due volte, chissà perché. Oppure sappiamo tutti che la lettera ai Galati in molti posti diventa la lettera ai Gelati. Cose di questo. Cioè la facilità di lettura è tipica, perché appunto è una lettura e non sempre i lettori sono delle persone altissimo livello di sofisticazione letteraria, anche se qui si apre tutto l'ambito del dire come e quanto si deve preparare i lettori, non lo discuto. Secondo, sembra simile ma è diverso, di notevole facile comprensione. Perché? Perché nel contesto di una lettura, ripeto, liturgica o simile alla liturgia, non c'è spazio per la discussione. Almeno quelle liturgie che conosco io non sono liturgie nelle quali uno può alzare la mano e dire scusi cosa ha detto, può ripetere. No. Nella teoria della comunicazione, senza entrare nell'espressione tecnica, cioè non un minimo rumore non può essere recuperato. Cioè, non si rilegge. E, altro enorme fatto, non esistono le note. È vero, esiste l'omelia dopo, la quale però, non sono un esperto, ma non pare che abbia il compito di fare soltanto delle note, ma pare che abbia soprattutto il compito di fare da ponte tra un testo e una situazione, quindi una certa attualizzazione. È vero, le cose si possono incrociare, però non è una forma di filologia popolare. Quindi la lettura liturgica è più ardua. Si sente, è vero, qualcuno va anche col libretto, non si torna indietro, non ci sono le note, quindi una traduzione di tipo liturgico deve avere, per esempio, in termini di linguistica molto semplice, un notevole livello di ridondanza. Una informazione non deve essere detta in fretta, eventualmente in qualche modo, non entro nei dettagli, la tecnica ci serve, in qualche modo detta con abbondanza. Un'altra caratteristica, le frasi brevi. Nella letteratura che si legge direttamente, uno può anche fare una frase lunga molte righe, ma una frase lunga molte righe è molto difficile da leggere, è molto difficile da capire. Quindi la dimensione stessa delle frasi è una caratteristica di questo tipo di traduzione. Una certa dignità linguistico-letteraria, evidentemente, perché non siamo... appunto, è un contesto che esige una certa dignità linguistico-letteraria, il che qualche volta fa un po' a pugni con le esigenze, con le caratteristiche precedenti, però è vero. E, ultimo, il rispetto di una certa terminologia o termine tradizionale. La liturgia è un ambiente nel quale ci si collega anche a una tradizione, e quindi anche questo. Tra le difficoltà, stabilire qual è il giusto livello tra queste esigenze un pochino, a volte, contrastanti. La tensione, per esempio, tra chiarezza e fedeltà alla tradizione. È una difficoltà, una traduzione specificamente liturgica ha questo tipo di fedeltà. Se uno lo fa come letteratura, beh, dice, beh, qui ci vuole una nota. Ma se uno lo fa per la liturgia, dice, qui bisogna far capire senza far la nota. O comunque... L'abilità nello spezzare le frasi. Non è tagliare fette di salame, rendere un periodo lungo breve. Se ogni tanto tagliamo. No. E lo sappiamo, una saggia procedura di spezzettamento è una difficoltà. Non è facile. L'utilità è quasi ovvia, e lo dico molto in fretta. La liturgia è massimamente democratica, è per tutti, o quasi, nel senso che ha, ma appunto non è per una elite culturale. Alla liturgia va anche la mia nonna che ha fatto la seconda o terza elementare, quindi è un vantaggio. Dire che la parola di Dio è per tutti, beh, finché resta nelle lingue originali, è soltanto per chi sa l'ebraico e il greco. Dire che è per tutti, se poi si fanno traduzioni soltanto a livello letterario molto elevato, esclude tante gente. Una traduzione liturgica ha il vantaggio, il merito, l'utilità di essere, ripeto, quel per tutti, che magari è quasi tutti. Inoltre, questo rasenta considerazioni di tipo pastorale, è per moltissime persone l'occasione più frequente o forse l'unica occasione di incontrare la Bibbia. Quindi una traduzione liturgica deve tenere presente anche di questa sua condizione. Ricordati che sei un'occasione preziosa, tanto preziosa che forse puoi essere l'unica. L'area del letterale, l'area del letterario, l'area del liturgico, l'area, anche qui il termine qualche specialista mi potrebbe sparare, ma pazienza, l'area io chiamo la traduzione tipo catechistico, dove catechistico vuol dire, si indovina un po' dal contesto, vuol dire un atteggiamento di comunicazione preoccupata da un punto di vista un po' didattico e della didattica specificamente della Bibbia e della fede. Quindi le caratteristiche sono l'uso della lingua dei destinatari, quello che in altri contesti dice la lingua corrente o cose di questo. Certo, bisogna proprio, basta leggere la lettera sul tradurre di Lutero, e questo le dice tantissimo, mi dispiace, i contadini per la strada o le persone per la strada dicono proprio così, e quindi si deve tradurre così. È una preoccupazione di questo tipo, lì e in altri posti. L'uso della lingua effettivamente familiare ai destinatari. Un'altra caratteristica inevitabile, a livelli diversi, è una certa semplificazione delle strutture linguistiche. Non sempre, però basta vedere come si deve tradurre per un uso di tipo catechistico certe lettere di Paolo, tanto per bisogna semplificare alcune strutture linguistiche. Inoltre, una caratteristica che mi pare importante, anche se non è tipica di una tradizione che ci circonda, ma di una tradizione non lontanissima, deve essere un libro che uno può leggere anche privatamente. Deve essere anche un libro da tenere sul comodino e leggere alla sera prima di dormire. Io ricordo che nei miei entusiasmi un po' ingenui, qualche anno fa, ho dato a mia nonna la Bibbia e il giorno dopo ho detto, credendo che fosse trasfigurata, dicevo, allora cosa hai provato? Dice, mi è venuto il mal di testa. Cioè, non era quella Bibbia che l'ho dato un libro che poteva leggere alla sera, perché l'ha fatto venire il mal di testa. Non era una traduzione, appunto, di tipo catechistico. Ultima caratteristica di questa traduzione è che può avere delle note, ma ne deve avere poche. Note importanti, centrali, essenziali. È difficile poi scegliere quali. Però se una traduzione di tipo catechistico ha tante note da affogare il testo, ecco, la quantità è importante a questo livello. A livello letterario molto meno. Difficoltà nel produrre questo tipo di traduzione, lo dico con uno slogan, preparare una traduzione facile è più difficile di prepararne una facile. Lo sanno in tanti, specialmente quelli che sono impegnati a farlo. Quindi non è particolarmente facile preparare una traduzione che poi sembra facile, anzi è più difficile tante volte. Un'altra difficoltà è la percezione del significato non delle singole parole, ma di una unità più ampia. E qualunque persona che ha dedicato un po' di tempo o alla riflessione linguistica o letteraria lo sa che il significato di una unità letteraria relativamente ampia non è la semplice somma dei significati delle parole. Non perché io so il significato di tutte le parole, so il significato di tutto un brano. Quindi, dove la percezione del significato globale è importante, è soprattutto in questo tipo di traduzione. Perché per motivi vari si permettono di semplificare o cambiare alcuni elementi, ma alla luce della percezione del significato globale. il suo difetto è del cambiare senza una retta comprensione del significato globale. Altra difficoltà, più che una difficoltà, una tentazione, cedere al fascino non dell'estetismo ma del volgarismo. Cioè, chiamiamolo un atteggiamento demagogico o populista. Oh, che bello, si dice così. Ecco. La Bibbia, parliamo di traduzione della Bibbia, non facilmente permette di dire, vabbè, qui delle espressioni che sono talmente familiari da rasentare il popolare o il volgare. Ecco. Il tema del gusto, citato prima. Ecco. Quindi, esistono certe parole, certe espressioni che è vero che si capiscono, però deformano la direzione del significato. Ultima difficoltà, come si fa con questa strumentazione a conservare certi termini o certe espressioni che sono particolarmente tipici, pregnanti? Perché anche una traduzione di tipo catechistico non è che può diventare una specie di allontanamento radicale. In qualche modo, non dico il modo tecnico, ci sono i testi e le esperienze che ne parlo, esistono, e lo so anche per esperienza, esiste la maniera di conservare i termini e espressioni piuttosto tecniche, ma insieme di aiutarle. Cito un esempio soltanto che può essere relativamente utile. Invece che dire Mosè vi ha dato la circoncisione, cosa che provoca quasi inevitabilmente, scusi che cos'è? Se uno dice Mosè vi ha dato il rito della circoncisione, dico, uno non sa cos'è la circoncisione, ma sa che è un rito. E quindi sa che la discussione va in quella linea. Quindi si conserva un termine che è un po' difficile non conservare in questo caso, ma d'altra parte gli si mette una stampella che orienta. Cosa che hanno fatto, ho studiato qualche esempio proprio nell'area targumica, per esempio, perché i targumi sono liturgici ma sono anche un po' catechistici da questo punto di vista. L'utilità di questo tipo di traduzione, anche questo è ovvio, per raggiungere persone che altrimenti non sono mai raggiunte. Aggiungo una osservazione. Questo tipo di traduzioni sono utili anche come introduzione o come prima lettura. Alla mia nonna che, leggendo una Bibbia dignitosa, le veniva il mal di testa, allora, per prima volta leggi questa, poi eventualmente ne leggi un'altra. Quindi l'utilità, chiamiamola propedeutica, che è tipica di queste traduzioni. Conclusione, guardo l'orologio, quindi mi sa che ce la faccio. Stringa un po'. Sì, ma io finisco proprio, se infatti, guarda, finisco. Sì. Conclusione, non entro in una indicazione un po' della tecnica ulteriore che applico a questa classificazione, ripeto, ridotta a 4 non sono poi tanti, però la conclusione è, stranamente, che un tipo di classificazione non è, a mia conoscenza, stato fatto quasi mai. Cioè, si fanno delle grandi discussioni, al limite quasi delle guerre, tra sostenitori di un partito o dell'altro, ma una classificazione che non dice buoni e cattivi, ma un modello, un altro modello, vantaggi, ecco, che io sappia, non è stata fatta e non si fa. Mi pare che si continua piuttosto su questa linea. Io, per finire, vorrei leggere, quindi faccio più la svelta, 4 traduzioni diverse di un pezzo della Bibbia. Delle prime due non vi dico neanche dove le ho prese, perché l'aspetto emotivo può ingenerare precomprensioni e pregiudizi che distorcono. Indovinate voi. Quindi delle altre due vi dico anche dove le ho prese. La prima: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'obbedienza della fede tutti i pagani per amore del suo nome, e tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazie e pace a voi da Dio, nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Esiste in italiano una traduzione di 12 righe senza un punto, ma non e non vi dico quale è. Un'altra almeno mette un punto e non la leggo per rapidità. Un'altra, che è quella che si legge, la traduzione c'è, dice: Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture. Poi fa un punto e poi va avanti. E vi leggo un ultimo esempio di quella che è piuttosto del modello catechistico. Vi scrive Paolo, servo di Gesù Cristo, punto. Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo perché porti il suo messaggio di salvezza. Punto. Nella Bibbia Dio, per mezzo dei suoi profeti, aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Punto. Riguarda il figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Signore. Punto. Sul piano umano egli è discendente da Davide, ma sul piano dello Spirito che santifica, Dio lo ha costituito figlio suo con potenza. Punto. Da Gesù Cristo io ho ricevuto il dono di essere apostolo, eccetera. Ecco. Là c'è un punto, qui ce ne sono 10. Ecco, questi diversi modelli esistenti credo che invitino, e io alla luce della esperienza non lunghissima, ma neanche pochissima che ho, io inviterei a appunto seguire il modello della non solo tolleranza, ma della comprensione reciproca. Esistono traduzioni diverse che possono essere in qualche modo tutte buone e utili, anche se qualcuno dice io preferisco questa e preferisco quell'altra, è umano. Però inviterei nel piano della traduzione a non applicare dei criteri di intolleranza. Io sono tentato di essere subito intollerante sull'ultimo testo tradotto. Resiste che alle tentazioni. Ha mandato in cavalleria la risurrezione dei morti, ma ad ogni modo l'esempio è forse molto... Forse l'ho mandato in cavalleria io perché guardavo l'orologio. Ah, allora, scusa. No, ma per la semplificazione. Comunque, il vantaggio lo abbiamo sentito proprio anche ex ore vestro, no? Il tentativo di una classificazione, almeno la prova a intenderci di che tipo è questa traduzione che si vuol fare e la legittimità di questi tipi, no? Questo mi pare veramente l'apporto molto, molto solido e ricco che ci è stato donato, no? Adesso non spenderei altre parole, ma aprirei subito la discussione. No, lei resti qui, mi scanso io piuttosto, viene professor Irigoyen, se posso invitarla. Capisce, senza quello non sta in piedi niente. Insomma, io devo scrivere per dire che c'era un punto dopo. Je suis persuadé que les contraintes que le traducteur s'est données à lui-même, il ne les a pas inventées, il a cherché à reproduire quelque chose du modèle. Et c'est là que je ferai appel aux spécialistes du psautier hébreu. Je ne suis pas hébraïsant, mais je suis persuadé, vous avez raison, je suis persuadé que ça revient de plus loin. Dans le temps. La relazione che il corrispondente che lei ha trovato in complicata un micro. Sì, ah, ecco. La forza, come dire, dei numeri, quindi si giustificano da sé. Ecco, possono avere, lei ha accennato a questi accidenti di trasmissione, possono avere un effetto, diciamo, diagnostico per individuare o per orientare le diverse opzioni testuali quando la tradizione manoscritta è divisa, ecco. Oui, alors là, j'ai voulu être tout à fait honnête, c'est-à-dire que je n'ai rien corrigé au texte de Ralphs. Donc, je suis persuadé qu'ici ou là, ce texte de Ralphs n'est pas très satisfaisant. Je parle de l'Editio Major. Bon. Il n'est pas très satisfaisant. Oui, Göttingen, Trentuno. Mais ça peut être ensuite, peut-être une aide à l'occasion pour la critique du texte, mais pour l'instant, je crois que la sagesse, la prudence, c'est de prendre le texte imprimé tel qu'il est sans rien changer. Et constater qu'il y a des égalités ou des presque égalités, une, deux unités, peut-être davantage. Sì, perché lei ha accennato anche alla versione saidica che presenta delle varianti, quindi potrebbero nascere delle interessanti constatazioni allora, anche con fonti testuali che si considerano meno di altre. Ce terme de Sela, un terme ebreu, c'est un impératif dont le sens n'est pas clair en hébreu, autant que je sache. Ce terme de cela se trouve dans le psautier et dans un seul passage de la Bible. Or, c'est dans Habacuc, dans le cantique d'Habacuc, le chapitre 3. Il y a trois exemples. Dans la version grecque, il y a diapsalma. C'est le seul endroit dans tout le reste de la Bible. Or, le livre des 12 petits prophètes qui a été trouvé il y a déjà une trentaine d'années et qui vient d'être publié de nouveau en 1990, par chance, il y a un petit morceau du cantique d'Habacuc et on trouve dans le texte grec de cette traduction, qui n'est pas celle de la Septante, on trouve « Sélé », « Sigma, Epsilon, Lambda, Eta », c'est-à-dire la transcription, non pas diapsalma, mais la transcription. Autrement dit, je pense en effet qu'il a pu y en avoir, mais ce qui est le plus frappant à mes yeux, c'est la quasi-unanimité du texte massorétique et de la Septante sur ce point, et puis cette confirmation extra, en dehors du psautier, que l'on trouve dans ce manuscrit qui est daté maintenant de la première moitié, non, deuxième moitié du premier siècle avant notre ère. Grazie. Una piccola suggestione del tutto autoschediastica. Guardando gli esempi a pagina 4, vedo tutte le finali, tutte eccetto una, nelle quali risulta come segno supplementare di struttura ritmica la distinzione della clausola pari, che si trova nella cosa più tarda. Sì. Me so on e kai ka mus en se solo la prima quello che viene in mente è un tratto che lo troviamo oui. Nella prosa più tarda per altra di oui. Però sarebbe forse una il riconoscimento di una certa tendenza anche della lingua prefigurata per oui. Questa ricerca di corrispondenze numeriche che sono inevitabili di quello caso probabilmente oui. Come elemento di indagine sarebbe forse oui. Da considerare oui. C'est à propos de Proverbi Proverbi 30 oui. Que nous trouverons beaucoup plus tard. Mais on pourrait dire que nous avons là les préludes de ce que Romanos le Mélote fera dans un genre tout à fait différent, mais 6 siècles ou 7 siècles plus tard. Oui. Alors ce n'est pas tellement un esprit qu'une réalité de la langue qui se développe et qui est utilisée par le le traducteur et ultérieurement par le poète lui-même. Vous avez tout à fait raison, je vous remercie. Ho seguito con molta attenzione la relazione di Rivera e crea molti problemi. Cioè, uno dei problemi è quello dello slittamento della quantità delle sillabe per il greco proprio di quel periodo. E allora noi ci troviamo come disorientati per non avere un punto fermo di questo slittamento. Lei l'ha notato, l'ha fatto notare, quindi questo era, è stato un argomento che a me ha molto interessato. C'è stato Levi che fece uno studio verso il 1950-55 a proposito dell'ebraico. Lui si fermò sulle basi, sui salmi ebraici, il ritmo che avevano. Dice, ed è difficile trasportarlo nelle altre lingue. E quindi, come è difficile, sono due cose distinte. E allora anche San Girolamo è entrato in questa vicenda. Cioè la grande difficoltà di rendere il salmo greco e il salmo ebraico. Quelli dei 70 hanno fatto lo sforzo massimo e noi ci dobbiamo attenere solo a quello e non possiamo fare diversamente. Fu la conclusione del Levi. E allora l'argomento che viene sempre fuori per noi che dobbiamo tradurre o fare, allora questi salmi come erano in ebraico vero e proprio? Girolamo cerca di dare una sua risposta. Sono versi, dice lui, accentuativi. E noi dobbiamo seguire l'accento ebraico. Difficile a portarlo in altra lingua. Mi ha fatto molto piacere, perché sono argomenti che noi non studiamo mai, non vediamo mai. E allora c'è anche sul piano filologico, quando dobbiamo entrare in merito proprio al greco-greco, e vedere questo slittamento come poi per il latino, e allora noi ci troviamo disorientati. Oggi non si studia più la metrica. La metrica così come era intesa, non riusciamo ad avere quelle valenze di questo slittamento continuo. Fu in Italia Di Capua che se ne occupò e io fui allievo suo, e allora un po' cerco di seguire, perché è un argomento difficilissimo, perché non si studia più e lei ha fatto bene a portare questo argomento proprio per la traduzione dei testi religiosi. Cioè, per quanto poi riguarda la traduzione è un tormento che io ogni giorno, perché la mia collana, forse siamo arrivati al 104° volume, è un tormento, E allora sono tutte questioni che si vivono e si soffrono. Non è che si può fare una norma, si vivono e si soffrono e poi c'è la via di mezzo. Solo un'attenzione io vorrei. Il caso di Quasimodo, che ha tradotto i lirici senza conoscere il greco, proprio, e allora dice, è un caso limite, diciamo, sì, molti, abbiamo avuto 4 anni fa a Macerata un convegno proprio sulle traduzioni, erano le traduzioni in genere, traduzioni classiche, portate in latino e greco in particolare, portate in italiano. Ci fu Albino, che è professore di greco lì a Genova, Albini, come dire, lui quasi accarezzava l'opera d'arte, lui è un po' estroso e si dirige i grandi libri della Gazzanti, e la sosteneva, dice, la traduzione deve essere è un capolavoro, deve essere un'opera d'arte, e portava appunto l'esempio di Quasimodo. Ma allora la materia non c'è più, cioè se uno non conosce la lingua non è possibile nessuna traduzione, noi travisiamo tutto e roviniamo tutto. Allora questa è l'attenzione che occorre, che non conosca bene il latino, conosca il greco, conosca la lingua che deve tradurre. Allora può distendersi e anche fare tutto quello che è possibile per i sentimenti, per le nuance, come dicono i francesi, da esprimere. Comunque è un discorso molto lungo, questo poi ringrazio ambedue i nostri relatori. Se mi date la parola un attimo, volevo fare solo una domanda duplice. Da un lato, io ho pensato molto, intanto che ho sentito, al lavoro che sta facendo Don Neri e i suoi confratelli a Montevelio. Don Neri, che è convinto e professa chiaramente la convinzione che la vulgata latina, tanto dispregiata anche proprio per riguardo al Salterio, altro non è che un calco dei 70. Ecco, vorrei sentire il parere vostro su questo e se questo è vero, sentire fino a che punto si potrebbe anche cercare nella vulgata latina qualche cosa di quei ritmi e di quelle periodizzazioni, eccetera. Che l'altro invece è una domanda molto più attuale, penso che il professor Irigoyen conosce Gélinot e la sua traduzione, la sua proposta, vero? E gradirei sentire il suo pensiero in merito, ecco, perché noi abbiamo il caso parallelo del Salterio corale della LDC, che perlomeno unico caso in italiano cerca di fare uno sforzo che va in quella direzione. Credo siamo ai primi passi, ma certamente io che ho vissuto dall'interno le discussioni che furono fatte per la liturgia delle ore e per l'adozione dei testi e per anche la forma tipografica da dare ai testi nella liturgia delle ore, ecco, sono, pur proprio avendo visto dall'interno in quali incertezze sono andati lavorando, sentirei molto invece come punto d'arrivo uno sbocco che anche nella disposizione tipografica dei testi salmodici, vero, nell'ufficio divino, insomma, una volta che questo discorso fosse più maturato e più acquisito, più verificato, veramente quello sarebbe anche il modo ideale di, per esempio, spezzettare in tre spezzi per l'ufficio di lettura o per un'ora canonica, vero, un unico salmo che viene diviso in tre parti, no? Mentre lo si è un po' dovuto dividere a metro, ecco, no? Probabilmente qui ci sono ancora molte cose da... Ecco, ma le domande erano, primo, la verifica di questo discorso di un'aderenza molto forte della Vulgata ai 70 e poi parere sul tentativo Gélinot. J'ai fait une expérience décevante. J'ai parlé à quelques-uns de mes collègues ou confrères intéressés par le psautier, connaissant le grec, éventuellement l'hébreu et le latin bien sûr, et ils m'ont tous dit « la traduction des psaumes de la Septante ne vaut rien, il n'y a que la Vulgate qui soit bonne ». Cosa sul problema della traduzione 70, io direi che forse Don Neri non è totalmente sulla strada esatta, perché chi ha pratica o ha letto molto Girolamo, epistolario, commenti eccetera, molte volte trova Aquilam, questa frase Aquilam secutus, ho tradotto così e così, e in effetti io non so fino a che punto abbia fatto bene Girolamo un incontro con Esaple di Origene, però chiaramente la Vulgata rispetto alla Vetus Latina, a quel tipo di Itala che probabilmente aveva in mano Girolamo, è vero, si distacca dai 70 più di quel che noi pensiamo. Poi varia da libro a libro, però si potrebbe Ecco, questo è un problema che dovrebbe una volta o l'altra anche essere affrontato, secondo me. Ma soltanto passare tutti gli scritti di Girolamo e contare le volte in cui dice Aquilam Secutus o qualcosa del genere e vedere che tipo di scelta fa Girolamo potrebbe essere l'argomento di uno studio molto molto interessante. Ecco, ancora c'è qualche minuto, non molti, ma insomma. Volevo dire, è una tesi molto ipotetica quella di Donnelli. Donnelli è molto bravo, lo conosco. Ieri sono stati da loro, ora stanno lì a Monte, dopo Monzabotto, Montesole, ecco. È gente che lavora e lavora sul serio. Però questo problema, che sarebbe come i padri secondo, terzo secolo, quarto secolo hanno tradotto il testo originale ebraico, è un problema molto molto spinoso. Essi ubbidivano, quando traducevano, ubbidivano a delle norme euritmiche che non troviamo poi nella Vulgata. La Vulgata va diversamente. Quelle norme che vanno cercando, che possono calcare la Vulgata, è un po' difficile, non c'è. Ora, questo è uno studio che di Capua fece. Quindi la Vulgata, quella diciamo dei padri dei primi secoli, che tradussero direttamente la Bibbia, l'hanno trovata, diciamo così, tutta diversa. E c'erano alcuni, Girolamo è uno, ha citato lui, Sant'Agostino orecchiava solo qualcosa, però prima di Girolamo ce n'erano alcuni che conoscevano anche l'ebraico. Tutta la zona punica dell'Africa romana, ci sono rimaste alcune espressioni passate in Tertulliano, e allora la traduzione di Tertulliano non rasenta per nulla quella che poi sarà la come si chiama, la 70. Quella della 70 è a sé, ha una linea tutta sua, è tradotta in greco, è una linea tutta sua. Quelli che la traducevano prima in zona, diciamo così, latina, ubbidivano altre norme euritmiche che non troviamo nella 70. E quindi c'è una prosa, diciamo, metrica che non troviamo lì, è diversa la situazione, è difficile proprio poter dire che quella viene dalla 70, o la 70 ha tradotto questo, molto difficile, non lo so. Io un po' sarei molto guardingo, ecco, molto guardingo. Don Felipe, papà, il nostro Neri, è una persona molto a modo, però è anche originale, ecco. E penso che possa essere una tesi originale sua, non lo so. Bene, se credete, adesso mancano pochi minuti, mi fermerei qui, salvo riprendere anche i temi trattati, vero, via via.